Ragazzi, bentornati alla cena dei regini! Quanto è bello fare questo programma, un'altra oretta ricca insieme di notizie, curiosità e quant'altro. Parleremo tra l'altro di matrimoni impossibili, quindi un argomento a noi molto caro e a me sconosciuto. Quindi continuate, cena@bacca.it per commentare la puntata, www.bacca.it per vedere tutte le ultime novità. Collegatevi adesso e noi torniamo dopo la sigla! All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena con l'angolo delle notizie dall'House, una settimana impegnativa ma epocale, epocale panda, perché abbiamo redatto il calendario di aprile con le nuove iniziative che sono veramente abbastanza varie e voglio dire c'è come sempre la grande elasticità dell'House e quindi incominciamo con i concerti, un primo concertino, il 13 la Mystery Night. E poi questa improvvisazione di ruolo dal vivo dove comunque interpretiamo, dobbiamo risolvere questo mistero durante questa serata, quindi una cosa molto particolare, ad uso cena con delitto, ma anche più divertente ovviamente. E beh, l'ho scritta io, quindi voglio dire. E poi la Pasquetta Open Grill, ragazzi, bisogna venire all'House, apriamo le grigliate. Chi vuole porta la carne la condivide, eccetera. Carne. Sarà una pasquetta indimenticabile all'insegna comunque dell'amicizia e della condivisione. O della carne. E della carne o della verdura, perché faremo due spazi separati anche per chi comunque è vegetariano oppure altre idee, quindi è giusto che sia così. Ragazzi, ragazzi, contenetevi, ragazzi, contenetevi. Poi, va bene. E poi il 24, come si uccide un drago? Come si uccide un drago? Facciamo mangiare Andrea. E questo è il titolo. E questo è il titolo della prossima sessione di Ars Live in ambientazione fantasy. E quindi poi alla fine, in finale, il 29, ragazzi, il 29 cena al buio. Questa cena particolare, la cena dei regini in versione dark. Cioè questa idea di anche per quello. Quindi, non avendo pagato la bolletta, sfruttiamo questa cosa per la cena al buio, quindi questa esperienza quando uno è al buio e i sensi si acuiscono. Ci sono già le persone che temono quindi il fatto di rimanere al buio, tranquillo. No, ho paura di cosa accendi. Vai tranquillo. È una cena però particolare, perché i sensi sono aumentati. Sul tavolo che c'era anche a comparire carne, gambe, può esserci tutto, ragazzi, partecipate, prenotatevi fin da ora, come al solito, come ogni cena, partecipazione gratuita, però su prenotazione, quindi ditemelo. Giusto per decorarci su chi è presente o meno. E poi www.bacca.it per trovare tutto il calendario che ancora sto ridefinendo in alcune cose, quindi possiamo ancora aggiungere una qualcosina. Per chi vuole partecipare a tutte le cene che seguono ogni settimana, comunque in generale a tutti gli eventi, sul sito trova tutti i contatti, c'è cioè chiocciolabacca.it per proporsi anche come ospite, quindi venire a parlare di se sei un artista o se hai fatto qualcosa di interessante nella tua vita, puoi venire qua allo spazio dove l'energia migliore di Reggio si riunisce e discuterne e parlarne anche in trasmissione. Ricominciamo a girare i video finalmente, a fare qualcosa di nuovo. E poi abbiamo già sperimentato e continueremo a farlo l'Ars Express, questa versione light più gioco da tavolo del regolamento di gioco di ruolo, che già era molto semplice di suo, quindi unendo il gioco da tavolo e il gioco di ruolo viene fuori una cosa carina, abbiamo visto abbastanza, già si sono persi in un dungeon alla prima esperienza, quindi speriamo bene, ragazzi. C'è chi nel famiglia di protagonismo si è preso due trappole. Dettagli, fa tutto parte del gioco, quando ricomincerai è molto semplice. Ragazzi, il bacca.it per essere sempre informati su queste iniziative, noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. Woo! All I need is a cam to record it for you, show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl.

ma la cosa bella è che è un robot ed è anche programmato per guardare negli occhi e seguire i visitatori che passano nella scuola. Inquietante. Quindi tu giri e c'è questo robot che ti balla davanti con queste sembianze di Lady Gaga, oh, con mascherella. Che... stiamo entrando in immagine. Però è veramente creepy, è veramente particolare. E tanto Lady Gaga quando ti guarda puoi solo per fartela addosso. Perché Lady Gaga ha fatto ultimamente un video in cui l'hanno quasi sì, tutta la video di 15 minuti ha fatto l'ultimo che ha fatto. È un cortometraggio, non è un video musicale. In cui praticamente ci sono il Mahatma Gandhi, sì, Gesù Cristo e Obama e Michael Jackson. Bello, perché si sente lei molto... Perché tutti la desideravano. Sì, a parte che lei era principessa del suo ballo, regista, cioè faceva tutto. Ok, lei. Quindi lei è una mascia. Ha prenotato l'intero castello con 140 e passa stanze per poter girare il suo video in tutte queste stanze. Bello. Con uno ha i soldi, non c'è che fare. Una volta che aveva a disposizione il posto, però giustamente. Chiediamo a Lady Gaga se ci presta qualche euro. Tipo. Meglio il robot che. Allora, questa è stata facile il robot. Perché si vede che quando uno ha un sogno e vuole raggiungerlo, non è solo per i soldi, perché alla fine i soldi li ha dovuti fare qualcuno. La dai, arrivi. Giustissimo, ma ragazzi. Ah, lei si è applicata, dice, quindi è arrivata. Ok. Per andare avanti, come donne che non si fermano davanti a nulla, era single da diverso tempo, era single da diverso tempo, non sapeva come giustificarlo agli amici e quindi da 14 anni questa Susan Heights vive con una famiglia di manichini. Li ha adottati e li tratta come se fossero i suoi familiari, cioè tipo qua c'è suo marito manichino, sua figlia manichino e lei li gestisce nella casa. No. Non c'era un personaggio in Naruto così? Non mi ricordo. Sì, ma si muove da fuori. Ma lei invece se li gestisce, lei è una specie di mi ricordo un film. È stato in una leggenda. C'era un film che non mi ricordo Lars, cosa del genere. Ovviamente c'è questo qua che non ha una ragazza e si ordina una bambola per corrispondenza. Praticamente lei la porta in giro con la sedia a rotelle e tutta la città per fare come ci tiene questo quest'uomo. Fai in modo che fai in modo di farlo sentire a suo agio, sia lui che ha la bambola. Dio, la porti in ospedale, la porti in giro. La gentilezza, la gentilezza. Io ho voglia di andare a letto con il cuscino alto 50 con la stampa di tutta. No! No! Basta! Abbiamo capito. Ognuno ha le sue. Sì, ma perché nessuno mi vuole bene? Ma dai, dai. Se alla cena sei voluto bene da tutti o quasi. Io, ma poi. Ma poi ragazzi, per chi è sfortunato in amore, magari è sfortunato in denaro. Ad esempio ti capita a Los Angeles di andare a portare a spasso il cane e trovare 10 milioni di dollari in monete rare. È capitato a questo tizio, stava andando e abbia trovato questi soldi rarissimi, perché tra l'altro sono risalenti all'età della corsa all'oro e non sono mai entrati in circolazione, quindi monete. Dove li hai trovati? Sotto un albero. Cioè il cane andava a fare il suo bisognino, dire zappete zappete, e t'ha beccato la. E nessuno l'ha mai vista. Una cosa tipo Goonies in versione moderna. Cioè in Goonies moderna. È una cosa che succede a una persona nel mondo e basta per anni e anni. No, a due persone, perché una dimentica 10 monete di 10 milioni di dollari e l'altra li trova. Oh, e in mezzo c'è un cane, vedi quando la natura ti aiuta. Quando tipo Charlie domani si esce. Domani tutte le persone che sanno che ci sono i tesori nella terra dell'America, dove quindi li vanno a cercare. Un conto è la persona che sta lì per i cazzi suoi, si passeggia il cane. Il cane pascola e trova le monete. Il cane pascola. Lo vedi lì a No, il cane era in una jam session, quindi in quel momento stava pascolando, poi abbaiava. E poi il cane che pascola ti trova 10 milioni di monete, ragazzi. Capita. Spero gli abbia fatto la cuccia d'oro, gli abbia comprato l'appartamento solo per lui. Secondo me gli ha tornato. Sì, sì. Sicuro, sicuro. Se io metto un collare è un cane. No, c'è differenza. Ma ragazzi, da 10 milioni a 9 milioni, 9 milioni di persone sono gli appassionati che hanno giocato in tutto il mondo a 2048, lo conoscete voi? No? 2048. Non lo conosci? È un gioco famosissimo, un videogioco diventato famosissimo nell'ultima settimana, programmato da un ragazzino di Gorizia, Gabriele Cirulli, e questo ragazzino ha programmato questo giochino. Che praticamente è una specie di sudoku però in versione avanzata, che lavora sui multipli di 2, e quindi bisogna completare un livello, cioè un'impostazione, per arrivare a totalizzare 2048 punti. Solo l'1% delle partite finiscono con la vittoria, e lui stesso non è ancora riuscito a completarlo del tutto. Quindi è un gioco veramente straordinario. E la cosa bella è che proprio in Italia questo gioco è quasi sconosciuto, invece sta spaccando in Cina e in Russia. Là c'è cioè una mania. Vabbè, in Cina con i numeri. Arriva la Fiabino che creerà il coso, il gioco più ci potente. Ci ritroveremo in Italia, come in Cina, avranno il 2048. Ma soprattutto, ragazzi, la cosa più bella, a parte il fatto che questo ragazzino è diventato un personaggio avvolto del mistero, perché comunica solo via Skype, non accetta interviste o contatti diretti col mondo, quindi bisogna intervistarlo solo da Skype. E poi ha fatto una cosa bellissima, cioè ha detto, visto che per sviluppare il gioco mi sono basato su altri giochi simili, l'ha ammesso, non mi sembra giusto guadagnarsi, quindi l'ho messo open source sul web, e chi vuole lo può, oltre che giocare, anche personalizzare e migliorare. Quando i ragazzini la vedono lunga, vedi, sto ragazzino 9 milioni di utenti avrebbe spaccato facendo soldi a 19 anni, e invece lui è sempre stato un nuovo. E invece vendendo un dollaro a copia avrebbe fatto di tutto, vero? Per un ragazzino, un altro 19enne che però è nei guai, è questo Danny. Danny vive a Londra e ha un grande problema: è il primo ossessionato, come dire, assuefatto ai selfie, sì. Gli autoscatti fatti col telefonino. Se ne fa 200 al giorno, cioè se ne faceva, perché adesso comunque sta meglio. Ti stai intervicando? È un disturbo della personalità. 200 scatti al giorno, ovviamente aveva perso tutti gli amici, principalmente sui social network, perché ti vedi questo qua che si fa un po' da ripetizione, evidentemente l'avevano salutato per questo motivo. Non usciva da casa, aveva problemi di vario genere anche a rapportarsi con gli altri, e viveva praticamente per farsi gli autoscatti. Aveva smesso di andare anche a scuola, non usciva da casa. Sua madre gli ha preso il telefono e lui ha cominciato a diventare aggressivo, al che poi ha smesso di avere un problema. Stranamente, io non so come una persona malata socialmente potesse ammettere di avere un problema, ma vabbè. Oh, io lo mettevo, no, a differenza delle sette, che guardavo un po'. No, a quintale! Ognuno ha la sua trasgressione, però questa è più antica, insomma, le serie si sono un anno fa. La perversione, no. Però comunque mi sembra strano, cioè avere intossicazione da selfie, cioè avere questa passione insana per farti foto. Per noi persone, guardate che tutta la mia cultura per quanto riguarda il mondo non la sono fatta così. E anche per quanto riguarda la musica. Va bene, ma andiamo avanti. da una scoperta incredibile, una macchina che comunque fa i selfie, quindi ingabbia un ragazzino, un'altra macchina che realizza un sogno atavico dell'uomo. La macchina si chiama Miracle Machine e, ragazzi, trasforma l'acqua in vino. Momento, rosso o bianco? Quello che vuoi, addirittura il vino che vuoi, e lo puoi anche speziare grazie a una serie di polverine, insomma ingredienti, che tu aggiungi all'acqua. Questa macchina, ragazzi, prossimo gadget per l'house. A posto direi di sì. Comunque costa circa $500, comunque un prezzo accessibile per essere prossimamente la cena del fatto. Dai, poi mettiamo in qua. E quindi voglio dire, trasformare l'acqua in vino, questa è fantastica, questa idea, che già non ce n'è poca comunque di acqua. E nel senso, Chissà se c'è un copyright del Vaticano. Tipo, no, ci abbiamo pensato prima. Vogliamo. La sensazione è impermeabile, la metto lì in mare. Wow. Vedrai, tipo. Ah, incredibile, incredibile. Ma poi tipo la macchinetta costerebbe $20, il resto sono per pagare i copyright al Vaticano. Sarebbe ovviamente una cosa, sì, incredibile. Creiamo una versione impermeabile, mettiamola sul Nilo e facciamo credere agli egizi che stanno per ritornare le sette piaghe. Bello. Si può, come si può pensare addosso agli egiziani. Vabbè, ma tanto con tutti i rodoli che c'hanno gli egiziani. Ma ragazzi, ma soprattutto il Vaticano ha altri problemi e li sta risolvendo a piccoli passi. Uno di questi passi è la grande presenza mediatica della mitica Suor Cristina. Suor Cristina, questa ragazza che dopo aver cantato una canzoncina a un programma che si intitola The Voice, sta conquistando il web. Lei è una suora di, mi sembra, 25 anni, è andata lì, si è presentata, ha conquistato tutti con tanto di lacrimucce, di commozione, eccetera, e lei comunque sta andando avanti. Che poi va bene, è brava, ma non è solo granché, c'è tutta questa fissazione è andata dal fatto che è una suora, perché sennò c'era una suora. Sì, ma infatti è il boom perché è una suora, basta, punto, non sa cantare. È una suora, quindi ha fatto il boom sul web. Questo è stato il grande. Ragazzi, la grande novità. Il clero tira in quest'anno, il 2014, ma prima che fate battutacce, bollino rosso, perché oltre alla suora c'è anche la versione un po' più piccantella delle nostre notizie. Iniziamo con la controparte della suora. Si chiama Aurélie Beaulieu, è una 23enne svizzera, è diventata arbitro. Però è famosa per il suo fisico perfetto che lei sfoggia non solo durante le partite, ma anche con le sue, i suoi scatti su Facebook. I suoi scatti su Facebook. A cercare di disgraziare. Su Facebook e su Instagram ha queste pagine ed è seguitissima. E quindi comunque lei dice, giustamente, oltre alla sua professionalità, vuole mettere in campo anche queste altre sue doti. Mi sembra giusto. Alla faccia di Suor Cristina, ma comunque e viene riconosciuto per più doti questa qua, è giusto, voglio dire, è ragazzi, più detto questo, una notizia terribile, dobbiamo concludere, sempre il bollino rosso, però mi dispiace perché cade una notizia che ha fatto la storia degli anni 80, 90 e anche 2000. Abbiamo detto prima, è possibile trasformare l'acqua in vino, quindi comunque c'è da confermare una leggenda, però un'altra leggenda è da sfatare. Cicciolina non è mai stata con un cavallo. L'ha detto lei, l'ha confermato, non ha mai girato questa scena e in questi giorni ha proprio dichiarato ufficialmente che questo mito della sua relazione con i cavalli è solo una leggenda metropolitana che è andata in giro, si è diffusa così nell'aereo. Ma io lo sapevo già. Non lo mettevamo in dubbio. Invece... Ma soprattutto ha finito di dire la notizia e ha guardato immediatamente me. No, io invece penso alle povere ragazze che in tutto il mondo tipo hanno assunto le sue sembianze, tipo sono tante i capelli, bionde, e si sono fatte riprendere mentre sono fatti chiappettare un cavallo. Cioè, il suo onore, il suo tributo. E poi si spada tutto. Cioè... La questione è che alcune sono anche morte. Non le conosco. Ma interna, perché belle, è un po' troppo grosso. Vabbè, ora legheranno però. Non le conosco, quindi se lo volete fare anche voi, non interpretate la bionda, ma interpretate il cavallo. basta una parrucca, basta un muso e abbiamo risolto. Ragazzi, detto questo, lui si è già ripreso da questa cattiva notizia. Passiamo a un piccolo spazio musicale e dopo torniamo su www.tbac.it per commentare questa puntata e per ascoltare anche le altre. Torniamo subito. Goes around, it comes around, it shines like a cigarette. Ragazzi, la Reggini, bentornati a quella che è. Un applauso spontaneo, sì. Era per i bentornati, è stato bello sentirlo, e quindi ci l'hanno fatto. Ok. Perché non l'abbiamo soppresso? Li vogliamo tutti bene. Bene, questa parte. Ecco allora. Ragazzi, la classifica questa settimana, i 10 matrimoni incredibili della storia, cioè quelli che sono le unioni anche a sfondo religioso, che però sono veramente particolari. Al numero 10 partiamo subito con una cosa abbastanza consueta. Al numero 10 in Germania un uomo si è sposato con un gatto. Quindi questo uomo tedesco che ha deciso di sposare la sua gattina, ma tra l'altro l'uomo di 39 anni per sposare la gattina ha avuto bisogno di un'attrice che fingeva di essere la gatta durante la cerimonia, perché il matrimonio in Germania il matrimonio con gli animali non esiste. Quindi io immagino questa attrice che si deve sposare un tizio ma interpretando una gatta, capisci? Tipo che durante il matrimonio perché? C'è un video di questo. Spero di no. C'è un video bello da te in nozze. Spero di no. Anche questo spero veramente di no, perché comunque questo amore così verso il felino che si trasforma in qualcosa di più importante. Ragazzi, al numero 9, premesso che è una classifica pazzesca, quindi possiamo andare avanti verso le posizioni più belle. Se questa è la 10, io gli altri 9 mi comincio a spaventare. Alla numero 9 in Sudan è successo: un uomo ha sposato una capra. Vabbè, come in Sardegna ci c'è da tempo. Come è tradizione, si sono detto. Ormai siamo avanti. Quest'uomo ha sposato la sua capretta, anche una capretta abbastanza simpatica, purtroppo è morta dopo soli 3 mesi di matrimonio, quindi no. È anche vedovo di capra. Non penso che sia, ma poi l'ha seppellita o l'ha mangiata? Non si dice, ma penso che l'abbia seppellita con tutti gli onori. E le patate. Della gloria. In Australia, numero 7, in Australia, un uomo... Alla numero 7, no, alla numero 8, giusto, bravissima. Mi stavo perdendo già una posizione che è la più succosa. Perché in California, in America, una donna ha sposato il suo camion. Torniamo alla terza. Cioè, questa donna, Maria Griffin, è andata in un concessionario della Ford, ha acquistato un camion e poi se l'è sposato. E tra l'altro a unire i due matrimoni è stato un caro amico, e dopo le nozze sono andati in viaggio di nozze in campeggio. Ho capito, ma il camion era Optimus Prime. Avevo un tubo di scappamento molto largo. Maliziosi. Un camion, perché voglio dire, pensa, è là, è tranquillo. Ma se poi qualcun altro lo guida è come se l'avesse tradito. Sì, si accorderanno, cioè, in qualche maniera. Adesso che ci penso sono meno attraente di un camion, di una capra e di un camion. E siamo ancora, all'ottavo posto. Aspetta, ti dico aspetta perché ne vedremo delle belle. Quindi tu hai questo camion, sintomo di stabilità, di forza, eccetera, e la donna evidentemente ha sentito questa potenza. Andiamo. Perché? Possiamo fare video anche su questo? Sì. Donne che sposano i camion, la nuova moda del web. Alla numero 7. Se questa donna stava prima con un uomo e poi ha lasciato l'uomo per il camion, si sta assistito. Oh, avrà sposato una lambretta per rifarsi. Alla numero 7, ragazzi, e questo è pericolosamente diffuso, lui si chiama Joseph Guiso e lei si chiama Miele, ed è il suo cane, un labrador femmina che lui ha sposato. Cioè questo tizio ha sposato il suo cane, è successo in Australia, in una città Tuba, sempre l'Australia. Ah, questo sì. Tra l'altro alle nozze perché sono ancora più sfuggenti. Alle nozze 30 persone comunque hanno gustato questa unione. Tra l'altro ci dicono che il cane era anche vestito di un elegante velo bianco. È una presa in giro. Oscenità nell'oscenità, tipo i tizi che mettono il velo bianco. Alla... Perché? Pensare che quella carne potrebbe essere stato siamo solo alla un'altra vita. No, questo. Ma ragazzi, quando, quando si va addirittura oltre alla numero 6, penso un caso unico al mondo, una donna di nome Erika, di cognome fa Eiffel, perché ha sposato la Torre Eiffel. Ha sposato la Torre Eiffel. Questo è una francese, ovviamente. Sì, la Parigi è francese. No, ma no, lei tra l'altro. Ma lei tra l'altro è il 36enne di San Francisco, è andata a Parigi per sposare la Torre Eiffel. E gli hanno permesso? Un'americana e gli hanno, a quanto pare. Ma permesso, la prima notte di nozze. Wow. E il vestito bianco gli hanno messo alla Torre Eiffel. No, no, era vestito. Era vestito in nervi. Uno striscione. Ma l'ha fatta per mettergli di... Esatto, ci sono anche le foto di lei, sono stupidi, che si abbraccia alla scaletta, che se la bacia perché si è sposata alla Torre. Poi in tanti piccioni siamo già cagato sopra. Ragazzi, avete capito? La Torre Eiffel, simbolo del romanticismo, conquista la donna. Il camion, simbolo di potenza, conquista la donna. Bisogna andare per simbologia a conquistare, cioè, la donna. Cioè, dovete diventare dei Transformers, se potete. Io che camion non c'è la donna. Ti il camion. Abbiamo altre 5 posizioni a cui ti puoi tira fuori il camion PC. Rifare. Tira fuori la sua rifare. Senti, scusa, sai che ore sono. Sai che ore sono. Ragazzi, alla numero 5, Bali, in Indonesia, un giovane ragazzo è stato scoperto comunque, diciamo, in pratiche abbastanza romantiche con una mucca, ed è stato costretto a sposarla. Dove? In Indonesia. Questo è bellissimo. Cioè, hanno beccato lui che comunque, diciamo, flirtava con la mucca e l'ha dovuta sposare. Ma il padre della mucca, che è per il fucile tipo cartico americano. Io non entro in merito, perché voglio dire, vabbè, almeno c'è il latte gratis. Perché sposare la mucca quando hai il latte gratis? Purtroppo il lavoro. Vedi quando le cose a volte non vanno bene. Invece in Inghilterra una storia un po' più, diciamo, romantica. Un animale che comunque è simbolo di agilità, di leggiadria. Lei si chiama Sharon Tendler e lui è Sandy. Purtroppo Sandy è un delfino e lei l'ha sposato. Ha sposato questo, il delfino Sandy. Lei 41 anni, lui 35. Mi sembra detto che uscita sul palco. E comunque lei si dice veramente innamorata di lui e stanno insieme da ben 15 anni. Cioè, capisci, 15 anni che lei sta con un delfino. Aspetta, lei è brava. Delfino curioso. Non lo dice, però Sharon Tendler di Londra. No, perché il fatto che fosse brava giustificherebbe l'amore per i delfini. Non è uno stereotipo. Ragazzi, continuiamo, perché comunque il delfino, si sa, come dicono le pubblicità, è un po' curioso. Ma soprattutto alla numero 3, un'altra storia incredibile. Lei, quella là, ha sposato la Torre Eiffel. Ma c'è un altro monumento, ex monumento, che ha la sua sposa. Lei ha un nome lunghissimo, è veramente difficile da pronunciare, a cui ha aggiunto Berlin Mauer, perché, che vuol dire muro di Berlino, perché questa donna del 79 ha sposato il muro di Berlino. È bello, però è bianco. Si vede che ne tiene un pezzetto a casa, tipo, con tipo ceneri. No, ma in che anno si è sposata questa? Lei si è sposata nel 61, poi si è trasferita. No, ancora era integro. Lei dopo che... Ah, è vero. Dopo che il muro è stato... 89. Va bene ragazzi, andate su Wikipedia e cercate. Ma soprattutto, dopo che l'hanno distrutto il muro, addirittura si è trasferita in Svezia per cercare di dimenticare questa storia d'amore per lei importante. Seriamente? Per me è... per la muraglia. No, vabbè, per me ha capito. Si chiude un muro, si apre una muraglia. Per me è capito gente del genere. Ora va a cercare il mostro di Loch Ness direttamente. Sarebbe fantastico. Ragazzi, alla numero 2, una storia che ci connette con la realtà. Che guardi sempre me. Chi lo aspetta, ora capirai perché in Corea del Sud questo ragazzo si chiama Lee Jin-yu. ha 28 anni, è appassionato di manga fin da quando era piccolo e ha sposato il proprio cuscino. Il Dakimakura, sì! Lo sapevo! Era più che ovvio. C'è scritto cosa rappresenta quel cuscino? Quale personaggio? Sul cuscino ha stampato, non si specifica quale, comunque la donna del manga a lui preferito e se l'è sposata. Cioè comunque si è fatto tipo questo cuscino... Sì, il cuscini ha detto non sono solo. Pensaci, una stampina, 20 euro e via, cioè... Magari. Ti porti anche la linea di quei cosi costa anche sui 35 euro. Guarda come è informato. Goloso. Il patrimonio questo è goloso, ragazzi, goloso. Quindi... Ma i parenti della sposa chi erano? Letti, divani? Penso il tipografo è l'autore del manga, cioè non ce n'è. Di più, ma ragazzi, la numero uno è veramente veramente forte, ma soprattutto voi con quale oggetto vi sposereste? Un oggetto. Io l'ho già detto, ho il mio computer o la mia macchina. Eugenio, il mio fucile. Panda. Da un oggetto a te caro. D&D. La sciarpa della Lazio. Ah, vabbè. Mamma mia, un laziale calabrese da Eugenio. Cioè già Lazio, già i malaziani non se ne vedono, voi siete calabresi. Ognuno ha le sue peculiarità. Ragazzi, lo numero uno, la storia veramente più incredibile di tutte, che unisce l'incredibile, anche quella venatura di romantico, perché al primo posto un tizio che in Thailandia ha sposato la sua fidanzata già morta. Cioè comunque hanno avuto questa storia, lei è passata a miglior vita, però lui comunque non si è rassegnato e ha voluto sposare lo stesso il cadavere della tizia. Necrofilia pura. Immagina questo è un bel gesto, immagino. No, è morta! No, è amore eterno. È un incontro tra il paradossale e il romantico, cioè dipende. Ok, ma immagina la notte. E di fatto non fece un uomo. No, l'ha già fatto. La sposa cadavere. Un altro la sposa cadavere è due. È vendetta. Devi superare il cuffino della carne. C'era un film peggiore, si intitolava Necromantic, forse tu l'hai visto, dove una tizia si innamorava di un cadavere, succedevano cose veramente. Sì, ma un cadavere capisci? È morta. Allora hanno voluto sigillare il loro amore oltre la vita, così, cioè. Questa cosa è molto drammatica. Piove anche, piove ragazzi. Possiamo trovare qualcuno che sposa la House of Back? No, grazie, siamo già in troppi qua dentro. Ragazzi, anche voi, cosa sposereste degli oggetti che avete intorno? Degli oggetti che comunque vedete? Controlli i cadaveri? No, ma io cadaveri non probabilmente i miei PC. Perché se dovessi scegliere tra uscire tutte le sere, stare a casa tutte oppure le giorni, preferirei stare a casa tutte. C'è quella riflessione. Il PC, giustamente. Poi la varietà di porte USB lascia parecchia all'immaginazione. Ragazzi, torniamo subito, piccola pausa musicale e torniamo subito. Ragazzi, qua era la cena dei regini, anche questa settimana ce la siamo cavati abbastanza bene, ci siamo spassati, e quindi mi raccomando, il back.it, guardate tutto il calendario del prossimo mese, ci sarà veramente di tutto. Dal back e dai ragazzi della cena dei regini, un applausone a tutti.